come fare perché io non ci riesco a cancellare quello che c'è stato fra di noi. Dimmi come fare perché ancora io ti penso. Se penso di non farlo dico che lo faccio poi, ma tanto non lo faccio, credimi diverso. Dico che ci provo ma non ci provo affatto. Mi sa sono un codardo e non ho mai il coraggio. Difficile che è facile lasciarsi è un fatto. È una storia come tanti, come altre non ce n'è. Avrò un mucchio di domande, la prima è perché siamo persi come pezzi di biscotti dentro il tè. Stare insieme e stare bene, ma divisi tanto che ti vedevo stare male, ma chissà com'è. E ti chiedo solo scusa, se pensavo solo a me. Solo ora mi accorgo che sempre chiesto come hai fatto a dimenticare tutto quello che abbiamo passato. Ora con uno straccio addosso mi chiedo se fossi cambiato come sarebbe stato. Sarebbe cambiato qualcosa in meglio, in peggio, forse non avrei mai imparato. È stato un lungo viaggio senza biglietto timbrato, con la sicurezza che un giorno qualcuno ci avrebbe fermato. Scendiamo insieme alla prima fermata, ma questa volta per la mia strada da solo, come se tu non ci fossi mai stata. Un amore da favola che non finisce bene, il lieto fine esiste nelle favole, non in queste storie vere. Adesso sono solo davvero.